Sura dell'Elefante, capitolo 105 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 5 ayat e discesa dopo la Sura 109 al Kafirun. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e clementissimo, non hai visto cosa fece il tuo Signore ai possessori dell'elefante? Non fece forse fallire il loro piano? Egli mandò su essi a ondate successive stormi di uccelli che fecero cadere su loro una pioggia di pietre d'argilla e li ridusse come pula dopo la battitura.